La storia che racconteremo oggi è una storia diversa da quella che dalle puntate precedenti abbiamo raccontato Genova attraverso le tre esperienze che hanno anche attraversato questa radio, l'esperienza di supporto legale, l'esperienza di Radio Gap, l'esperienza di Indimedia. Oggi abbiamo scelto per questo quarto e ultimo appuntamento di questo ciclo, mini ciclo di trasmissioni che ci portava poi alle giornate del decennale genovese. Sono passati ormai, ci siamo ai dieci anni da Genova, ai 10 anni da quel 20 luglio in cui perse la vita Carlo Giuliani, che poi è una delle figure che andremo a ricordare anche in questa trasmissione. 10 anni che sono stati poi caratterizzati da quello che è stato, soprattutto nei primi anni, poi se ne è riparlato ultimamente per quanto riguarda la Val di Susa, il famoso spauracchio dei Black Bloc. Si è parlato in lungo e largo, sono stati messi alla gogna, si è detto di tutto, il contrario di tutto, però fondamentalmente in questi 10 anni, mentre abbiamo visto documentari che ci raccontavano la storia del Carlini, di Via Tolemaide, del sabato, della manifestazione del sabato, anche dell'omicidio di Carlo Giuliani, di quello che si è mosso intorno a quell'omicidio, nessuno aveva mai raccontato da dentro, così nessun partecipante alle varie azioni, comunque a quell'area che si era così riunita attraverso la sigla del network anticapitalista, nessuno ancora aveva avuto voglia di farlo. A noi interessava invece andare a raccontare questo spettro proprio per andare così a fugare qualche così e anche a fugare a cancellare qualcuno delle tante sciocchezze raccontate in questi 10 anni, e forse se non fossero state raccontate queste sciocchezze in questi anni non avremmo neanche ciclicamente così sentito, no? E oppure visto agitato il mostro che si è aggirato un po' per tutta l'Europa, il mostro del blocco nero, come se fosse chissà quale organizzazione politica, un po' come la Spectra dei film di James Bond 007. Semplicemente è un'area politica fluttuante che si riconosce fondamentalmente in tattiche di piazza. E vestirsi di nero lo facevano già da anni, non, in Italia magari no, lo facevano già da anni in Inghilterra, quanto e soprattutto in Germania. Era un modo semplice di autotutela, ossia vestirsi tutti unicamente di un colore, monocolore, anche per rendere più difficile evidentemente l'identificazione. Si fa in piazza, qualcuno negli stadi d'Europa lo ha raccolto, perché poi alla fine è uno strumento anche appunto di autotutela per chi decide di andare a manifestare in maniera determinata. Noi lo andremo a raccontare attraverso un compagno che ha deciso così in qualche modo di andare a raccontare la sua esperienza, il suo vissuto nelle 3 giornate genovesi, appunto in quello che è stato per lui. Sì. Allora, cominciamo questa nostra narrazione di questa sera. Tu, sei arrivato a Genova in quei giorni? Sei arrivato prima? Come hai deciso di andare? Qual è stata, insomma, il tuo pensiero? Insomma, raccontaci un po' quello che ti ricordi. Allora, io sono arrivato a Genova esattamente una settimana prima del corteo di cui poi dopo parleremo, e ci sono arrivato, diciamo, con mezzi propri. Sono arrivato con un treno, se non mi ricordo male, insieme a altri compagni con i quali in quegli anni comunque abbiamo girato per queste varie demonstrazioni in giro per l'Europa, contro il G8, contro il WEF, contro il WTO, eccetera, che tra il 98 e il 2000-2001 ce ne sono state diverse dalle nostre parti. E quindi mi è sembrato giusto anche partecipare a quella di Genova, anche perché per una volta stavamo, diciamo, manifestando a casa nostra. Quindi insomma hai raccontato un po' anche la nascita di queste prime manifestazioni altermondialiste che sono nate un po' da Seattle, ma insomma anche da prima, però diciamo sì, la prima volta che sono proprio esplose con tutte le loro caratteristiche, quindi la composizione variegata di soggetti politici, anche di tattiche diverse, però tutte quante unite intorno agli stessi obiettivi, un po' no, l'abbiamo là da Seattle, quindi insomma, tu con i tuoi compagni siete stati anche in altre manifestazioni che sono arrivate poi a Genova, quindi immagino anche con una crescita in questo percorso, un'acquisizione di conoscenze, di, non so, magari se ti va di raccontarci qualcosa anche su questo. Guarda, allora sì, diciamo sulla, appunto hai detto bene, sulla scia di quello che era successo a Seattle nemmeno un anno prima o poco più, e, insomma giù di lì, e abbiamo, con gli altri compagni e compagne abbiamo partecipato a, appunto a queste grandi manifestazioni che di differente avevano rispetto a quelle che magari abbiamo... a cui abbiamo partecipato, abbiamo sostenuto nel nostro territorio, erano manifestazioni di una portata molto più ampia, in cui appunto c'era un'eterogeneità di partecipazione totalmente differente da quella che vedevamo nel nostro paese. C'erano capacità di organizzazione, di grossi momenti che da noi erano immaginabili ancora. Tant'è vero che penso anche Genova per noi fu, diciamo, una specie di introduzione a questo genere di eventi, che però mi pare chiaro che anche c'è stata l'intenzione chiara di non voler replicare alcun tipo di dimostrazione di quel genere nel nostro paese. Cioè, quel giorno c'è stata una palese risposta del governo, del nostro governo, comunque di quelli che erano direttamente presenti lì a Genova a comandare i vari reparti, di non dare il via appunto a una nuova modalità anche di confronto e di partecipazione a queste dimostrazioni, a queste manifestazioni, proprio perché erano delle manifestazioni a cui partecipavano un po' tutti, a differenza di quelle che fino a qualche momento prima magari potevano essere manifestazioni, diciamo, di nicchia o di una piccola parte di un movimento, mentre queste qua, proprio per i loro temi globali, portavano in piazza le persone di tutti i tipi, sia da quelli che lavorano nel sociale e fanno attività politica tutti i giorni, anche le persone semplicemente stufe dell'andamento delle cose, del malgoverno e di queste altre, insomma, tipologie di avversità, non so come dire. Il passaggio che ci ha portato a partecipare a Genova è stato anche quello di poter vedere un'ampia partecipazione anche nelle piazze di Genova di una diversità di movimenti, proprio quello che ai tempi si chiamò il movimento dei movimenti, no? Che, diciamo, racchiudeva tutte quante quelle aree che si erano frammentate dopo gli anni 80 e anche un po' gli anni 90, invece lì a Genova si ritrovano un po' tutti quanti. Sotto si ritrovano anche un po' tutti quanti, ma anche se sparpagliati, non so come dire, eccetera. No, sì, no, nel senso si ritrovavano fisicamente tutti quanti. Poi magari, non so, questo è anche un pezzo del puzzle che metto io, che magari come tante altre persone a Genova ero per la prima volta in una manifestazione così grande e così variegata, la prima volta nella mia vita, e comunque anche l'impressione che fossero lì tutti fisicamente e anche organizzativamente, che magari anche qualcosa che era passato di più sui media, quindi magari per qualcuno che non era così all'interno poi delle dinamiche di movimento, poi negli anni successivi ti rendi anche conto che non era proprio così. vero, e questo penso sia già insomma, un dato interessante, però ecco, fisicamente sì, si era tutti lì forse per la prima, una delle prime volte in maniera abbastanza inedita, con uno spettro molto ampio, e anche aggiungerei io uno spettro molto ampio di realtà non organizzate. Nemmeno vagamente, veramente tante persone di tutte le età che autonomamente decidono di prendere il treno e anche tante persone che lo fanno poi già dopo l'uccisione di Carlo, quando già è ben chiaro il governo e i suoi media stanno urlando a gran voce: non venite qui, questa cosa sta succedendo adesso, ma non succederà più. Anche in quel momento, tante persone slegate da realtà ed organizzazioni comunque si sono mosse. Quindi, questo evento ha avuto anche dei contorni e delle Secondo me è un fenomeno di massa, ma nel senso proprio di sistema complesso, cioè nel senso è emerso. Quando si dice dal basso, penso che forse questa è la maniera per visualizzarlo nella maniera più chiara. E quindi sì, c'erano tante realtà, organizzate e non organizzate, alcune di queste realtà arrivavano a Genova con dei percorsi, già nei mesi precedenti avevano insomma dichiarato con che analisi arrivavano a Genova, e alcuni avevano anche dichiarato come sarebbero stati a Genova, e non tutti però. E quindi insomma poi rispetto a questo le giornate si sono anche configurate, si sono svolte, quindi a volte anche magari con dei malintesi, poi vabbè certo in una città piccola come quella di Genova, con un'urbanistica particolare come quella di Genova e con tutte quelle persone, io insomma ripensandoci in questi anni a volte penso addirittura che forse non è poi andata nemmeno così male, nel senso che insomma anche gli spazi che si sovrapponevano eccetera, e quindi tu mi dicevi che sei arrivato con i tuoi compagni e a quel punto come vi siete preparati, che tipo di analisi avete fatto su quelle giornate, almeno se avevate delle idee prima o non le avevate magari. Ma guarda, su siamo arrivati lì, sì, con la volontà di partecipare appunto a questo grande evento, con tutta la disponibilità a dare una mano per quello che serviva, a mantenere dei grandi campeggi internazionali, alcuni occupati lì sul momento, altri su richiesta. Non avevamo nemmeno bene dei contatti precisi, per esempio. Siamo andati là con tanta buona volontà di voler manifestare e di voler mettere a disposizione appunto questa nostra volontà. E questo poi vabbè ci ha portato lì in quei giorni appunto ad occuparci di semplici mansioni all'interno dei campeggi in cui siamo stati ospitati e che assieme a tutti gli altri, le altre comunque abbiamo autogestito. E dopodiché poi vabbè durante i giorni, oltre a fare queste routine all'interno dei campi, nel senso nei campeggi, nel senso di anche fare accoglienza per gli altri che arrivavano, che volevano sapere come erano organizzate le cose, e squisitamente scoprivano che erano tutto non organizzato, o meglio, cioè era auto-organizzato, quindi se ti mettevi in mezzo bene, altrimenti ciccia, come si dice. E per il resto poi assolutamente in questo modo più o meno spontaneo e del tutto auto-organizzato, e siamo poi arrivati così anche nelle piazze dei diversi cortei che c'erano e che erano stati promossi da diversi comitati che avevano lavorato prima ancora di Genova. Per lì a Genova io non mi ricordo se ci fosse un comitato che diceva si fa una cosa, non mi pare proprio. C'erano diverse piazze in cui si tenevano delle assemblee in generale, non so come dire, la piazza dove si è fatta i concerti era piena di capannelli di persone che si incontrava, si pensava a quello che voleva fare il giorno dopo, quello che ha appena fatto il giorno stesso, insomma non è che c'erano dei luoghi dove c'era una governance, oppure c'era qualcuno che decideva qualcosa, quello non mi sembra proprio, almeno non nel mio caso, con le persone con cui sono stato io. E questo sempre, vabbè, poi per dire che piano piano poi siamo arrivati ai giorni dei cortei e niente, poi se prima vogliamo parlare di qualcos'altro, poi se no iniziamo diretti con una cronaca. Allora, anche perché appunto come dicevi tu giustamente, fondamentalmente la gente, molti si erano già preparati da prima, ossia c'erano le cosiddette piazze tematiche dove i pezzi di movimento si riunivano per appartenenza, e poi c'era una marea di gente che invece spesso e volentieri non si riconosceva con le aree, ci confluiva per simpatia, per conoscenze, oppure no, oppure appunto si è anche auto-organizzata. Non dimentichiamo che a Genova il corto del sabato c'erano 200-300 mila persone, c'era un mare di gente, e racchiudere tutto in tre sigle, quattro sigle, cinque aree è tutto molto difficile. Ricordiamo che dietro i tre processi principali di cui abbiamo parlato tantissimo, sia Diaz, Bolzaneto e il processo 25, su Genova ci sono stati almeno un centinaio di altri piccoli procedimenti a persone fermate durante quelle giornate che non facevano parte di nessunissima area politica politiche che non sono neanche rientrate appunto nei tre processi principali. Sono state talmente tante le denunce, i fermi, appunto i processi per fatti così piccoli, che anche gli avvocati stessi su a Genova, che per anni hanno seguito e continuano a seguire i processi, non hanno mai avuto il polso della situazione. Arriviamo dunque alla giornata di giovedì, che è stata la giornata del corteo dei migranti, dove la gente cominciava ad arrivare nella città genovese. C'erano, se non sbaglio, tra i 10 e le 20.000 persone, un corteo abbastanza allegro. Il temporale della notte tra giovedì e venerdì, che un po' segnò, secondo me, fu un po' di auspicio a quello che poi è stato il temporale del venerdì, perché al di là di tutto ricordiamo che il venerdì le piazze erano organizzate con la piazza Manin, se non sbaglio, dove c'era, diciamo, l'area della sinistra, delle associazioniste, come si dice, le cosiddette, sì, lì c'era la rete più Lilliput, Attack, le Mani Bianche, e dicendo c'era il corteo che partì dal Corriere, dal Carlini, quello che poi fu caricato a via Tolemaide, della cosiddetta area della disobbedienza, e poi c'era il terzo appuntamento che magari ci racconterai tu, che quello che poi è stato, no? Che dalla sera in poi è stato chiamato l'appuntamento del blocco nero, e giù da lì sono cominciati gli strali. In quella fu una giornata particolare, un corteo caricato violentemente, piazza Manin caricata violentemente, e anche appunto il corteo del cosiddetto, tra virgolette, blocco nero caricato violentemente, che però a differenza di altri riuscì a sparpagliarsi in città per poi appunto ritrovarsi in diversi punti. Allora, io sì, ricordo che c'è stato, sì, il temporale durante la notte, diciamo, e mi ricordo poi la mattina, bene o male, siamo partiti da questo campeggio, siamo andati coi mezzi verso Piazza da Novi, e quindi coi mezzi lentamente siamo andati verso, cioè chi partiva perlomeno da quel campeggio ci è andato molto lentamente, perché erano... E un bel po' di persone che con i mezzi pubblici e con il traffico di tutta una Genova bloccata, oltre che incancellata in questa zona rossa, e ci permetteva appunto di arrivare molto lentamente, cioè proprio con il contagocce, come si dice qua a Roma. E fra l'altro poi tutto il viaggio sull'autobus comunque era già un vociferare di leggende metropolitane su cose che succedevano nei commissariati, nelle strade, camionette dei carabinieri che facevano già caroselli o cose piuttosto azzardate prima ancora che dovessero iniziare l'orario di partenza delle varie piazze. Quindi un po' di ansia, insomma, pure noi ce la mettevo, perché ancora stavamo ancora sugli autobus, e dici non sai nemmeno. Io questo l'avevo rimosso, no, una cosa tra l'altro anche secondo me è anche abbastanza importante, perché già dalla mattina, dalla primissima mattina, prima che si muovessero i cortei, che cominciassero gli appuntamenti, già giravano voci, poi orchestrate, come vi pare, magari ovviamente che arrivavano dai media genovesi, ma anche da quelli nazionali, su situazioni di scontro, di conflitto dentro la città di Genova, quando poi in realtà la situazione era un po' diversa. Ora questa cosa l'avevo rimossa, è vero, già dal primo mattino alle 10, alle 11, tu dici ma come, la gente resta ancora svegliata, sta ancora a muovere, così. E così piano piano, cioè molto piano, nemmeno piano piano, cioè molto lentamente, perché aspetta un'auto, aspetta un altro, fino a che non diventi in corteo, insomma non è che è stata una cosa immediata, non è, cioè, quindi i tempi sono stati molto dilatati, non ci sono state quelle che si possono immaginare come delle azioni, cioè degli spostamenti premeditati dei corpi organizzati, cioè la gente con l'auto arrivava al corteo molto, molto tranquillamente, nessuno andava di fretta, insomma. E piano piano appunto si raggiungeva Piazza da Novi, che tra l'altro per me è manco una zona che non ho nemmeno presente di dove fosse rispetto alle altre zone che conoscevo di Genova, quindi trovavo veramente all'oscuro di dove stessi andando, nel senso a livello di territorio. E tant'è vero che arrivati nella piazza non ero nemmeno convinto che fosse quella, perché la vedevo già sbarrata in tutte le direzioni e dicevo in che senso qui parte il corteo, qui era una piazza che già quando almeno sono arrivato io con il gruppo di persone con cui stavo era una piazza che almeno da tre uscite era già totalmente bloccata da questi cellulari della polizia con davanti le grate che andavano proprio a chiudere completamente una via, non è che c'era possibilità di andare ai lati, niente, c'erano queste cancellate montate davanti, come a simulare un'estensione semovente della zona rossa, quindi anche là, magari bene o male abbiamo iniziato anche a avere la percezione di quello che probabilmente qualcun altro, che non eravamo noi che stavamo in piazza, voleva che andasse quella giornata, perché non a caso io mi ricordo che in pochissimo tempo, nemmeno sono sicuro se eravamo arrivati tutti quelli con cui eravamo partiti dal campeggio, che mi ricordo che appunto questi cellulari con le cancellate iniziarono a pressare la piazza da non so darti orari perché non mi ricordo proprio, sì, era la mattinata, ci abbiamo messo un po', insomma. Arrivare lì, arriviamo dentro questa piazza, nemmeno la piazza si inizia a gonfiare, cioè nel senso c'era questa pure percezione che c'era ancora gente che doveva arrivare, che quindi il corteo era ancora non è che stava lì per iniziare, ma insomma ce ne sarebbe voluto un altro po'. Fatto sta che insomma almeno lì, quello che mi è sembrato a me è che la polizia invece ci ha voluto mettere un po' fretta a partire, spingendoci già dalle altre tre direzioni in cui non potevamo andare, iniziando a chiudere un po' la piazza. Ok, questo qui era l'antipasto del corteo. Fatto sta che bene o male, non so dirti se tutti, però bene o male quelli che erano lì in piazza, molto allarmati da quello che accadeva, perché dici non abbiamo nemmeno tirato fuori uno striscione praticamente, non abbiamo nemmeno fatto uno slogan e qui ci stanno già ci contengono come, non so, comunque con le più bieghe maniere in altri cortei, in altre situazioni, mai visti delle camionette con le cancellate che ti iniziano un po' a fare pressing così, senza nemmeno che si presenta, che ne so, uno con la fascia tricolore a dire sparpagliatevi, andate via, non si può fare, è stata revocata l'autorizzazione, non lo so. Senza nessuna indicazione. No, no, no, Solo senza nessuna le. indicazione, non è che dice, arriva uno, ma potete spostarvi più in là. No, no, no, in tranquillità prendi, accendi il coso e inizi a spingere, a cancellare, cioè nel senso. E poi mano a mano, come trovi qualcuno che si oppone, già iniziavi comunque a punzecchiare la gente, non so come dire. E di lì a poco, non so come dire, non penso che. Mi viene da dire, si è manifestato quello che poi in futuro è diventato il grande spauracchio identificato come Black Bloc. Nel senso, in quella piazza probabilmente c'erano tante persone che in quei tempi appunto hanno seguito questa che poteva essere appunto una tattica, o quella di vestirsi più o meno tutti uguali, essere già pronti con un paio di mascherine contro i lacrimogeni. E quelle che erano delle, diciamo, un tempo precauzione tramandate da padre in figli nei movimenti, sono diventate nel particolare di Genova una strategia ordita contro l'ordinamento dello Stato e chissà cos'altro ci hanno buttato sopra, ma in generale era solo una buona parte di persone, insomma, che sapevano che se vuoi comunque forzare, non so come dire, se te vuoi comunque finire il tuo corteo, sai che probabilmente arrivi anche a un lancio di lacrimogeni, ma questo non vuol dire che te sia preparato per una guerra civile. Questo vuol dire soltanto che vuoi finire un corteo dove è probabile che appunto nemmeno parti e già ti vogliono cacciare via. Ricordiamo poi il clima di quei giorni, ricordiamo che era un clima in cui nelle settimane precedenti non si era altro che creato, orchestrato appunto un clima da guerra civile, ricordiamo, no? Ma non le stesse forze dell'ordine che minacciavano i propri reparti celere in qualche modo impaurendo gli stessi attraverso delle fantasie. Ricordiamo le buste di sangue infetto, ricordiamo gli elicotterini telecomandati che esplosivi, ricordiamoci tutte queste cose. Dunque c'era un clima che di per sé già era incendiato e dall'altra parte c'è stato chi questo clima, dopo averlo incendiato, ovviamente parliamo sempre delle forze dell'ordine, hanno anche usato le loro truppe stesse per andare a fare il macello che poi c'è stato. Insomma, ritornando anche un po' alla cronaca, perché poi sono importanti alcuni passaggi pure per capire com'è andata effettivamente, perché io ho dei ricordi molto sbrigativi poi da lì in poi. Come vi dicevo prima, è stato tutto molto lento fino all'arrivo, diciamo, nella piazza. Poi dall'attimo in cui dici ok, mi pare che siamo un po' tutti, nemmeno a finire di dirlo, che praticamente il corteo non so se addirittura non dico in anticipo, però insomma parte un po' prima che arrivino anche gli altri, proprio perché c'è questo, si inizia a subire questo pressing. Immediatamente, con una serie di comunicazioni comunque con le altre piazze, le altre cose, si viene un po' pure a capire che la stessa cosa succede nelle altre piazze, che quindi non c'è nemmeno appunto una strategia della polizia o dei reparti delle forze dell'ordine di dire ce la prendiamo con quelli che appaiono magari i più neri, cioè, no, proprio perché si agitava questo spauracchio. No, la polizia si stava muovendo parallelamente sia su quelli che erano più bianchi, su quelli che erano più grigi e su quelli che erano più neri, quindi anche su quello non è che non c'è una motivazione in più poi dell'accanimento della polizia, nel senso, anche perché poi se la sorpresa con tutti a 360 gradi, e da lì in poi hanno poi iniziato a sperimentare questa nuova tecnica del ndocoglio coglio, anche detto prendo a caso, che continua a essere una di quelle che va per le maggiori anche agli ultimi cortei, agli ultimi, nonostante ogni volta schierino i migliori reparti, prendono sempre a caso, perché comunque statisticamente, cioè, prima o poi uno lo prende, insomma. Fatto sta appunto pure lì, io mi ricordo che brevemente veniamo un po' spinti fuori dalla piazza, bene o male la gente che esce da quella piazza è un po' turbata, non so come dire, nel senso non è che esce parte con un corteo tranquillo e pagato, insomma esce pure un po' con l'ansietta perché te stanno a spingere coi cellulari da dietro, non è esattamente come dire oh, ammazza, oggi facciamo una bella passeggiata, insomma, cioè, insomma, ci stanno già queste cose che ti spingono da dietro, e se non ti sposti e arrivi a contatto troppo vicino appunto agli agenti, ti inizi anche a punzecchiare un po' con i manganelli, eccetera. Ma manco fatto il primo angolo, comunque parte più o meno quella che è una prima carica, o non so, io le chiamerei delle continue punzecchiate, diciamo, al corteo. Non delle cariche vere e proprie, non dei lanci fitti di lacrimogeni, ma un'irritazione continua che suscita dopo pochi attimi comunque le reazioni della gente, perché non è che io comunque sto lì a farmi prendere di mira dai tuoi alcolizzati che non hanno niente da fare lì e che tirano i lacrimogeni e ti danno la manganellata e accelerano qualcosa, insomma, ognuno ha i suoi problemi, ma si deve pure sapere controllarsi. Fatto sta che appunto poi di lì in poco esce anche fuori un gruppetto che poi anche questo successivamente viene riconosciuto come i più pericolosi criminali della storia, che erano questo gruppetto con i rullanti e bandiere e delle maschere, una cosa assolutamente coreografica, che invece poi è stata riconosciuta come il perno centrale dei Black Bloc, questo, sì, il male totale, proprio Cthulhu. E c'erano questi quattro tizi, non so nemmeno da dove inizio, immagino magari dal nord Europa, visto che Non erano i teatranti austriaci poi fermati, arrestati, incarcerati per poi essere scarcerati? Perché secondo me erano gli stessi. Però qui magari mi sbaglio, dunque. no, è probabilissimo, anche perché c'erano diversi gruppi dal nord Europa. Io non so perché il nord Europa, ma ovviamente la gente si veste nero comunque. Però nel senso volevo di quello, perché c'erano molti gruppi che partecipavano comunque al corteo assolutamente con intenzioni pacificissime, appunto portando delle coreografie, delle scenette, dei costumi assolutamente ben fatti, e che dovevano, cioè, sviluppa tutt'altre riflessioni, no? Che devono sembrare la morte nera, Darth Vader, e tutto il trittico dell'odio supremo, capito? E niente, questo però è stato, non so come dire, ecco, da lì in poi la polizia ci punzecchiava il corteo composto comunque da una diversità di persone, non è che ci stavano solo questi che poi potremmo, che hanno chiamato Black Bloc e la gente normale, no, c'era proprio una grande diversità dei partecipanti, fra cui questo gruppetto con i rullanti, eccetera, che se non altro avranno messo un po' di animo alla gente che avevano intorno, invece dell'ansia, della paranoia e della paura, delle punzecchiate, i lacrimogeni che ci arrivavano così. Dalle vie parallele ci venivano tirati questi lacrimogeni a palombella, che quindi noi non sentivamo manco il botto dello sparo, ci arrivavano dalla via parallela, da sopra i palazzi, capito? A palombella, da dietro i palazzi. E te dice perché? Ma io so cioè non ho fatto niente. Meno male che ci stanno questi che guardano pure, almeno dice, c'hanno le maschere da teschio, però insomma, perlomeno cioè, prendono con ironia lo scatafascio, insomma, delle cose di come stanno andando, motivo per il quale noi stiamo manifestando. Niente, nemmeno un altro paio di angoli che comunque questi punzecchiate diventano delle vere e proprie provocazioni, nel senso troviamo delle macchine della polizia ferma in mezzo alla strada che ci intimano che non possiamo passare quando almeno fino a quel tratto il corteo doveva essere tutto non so se era autorizzato, comunque era palese che si sarebbe passati di lì, c'erano anche delle cartine penso dei percorsi dei cortei, quindi erano assolutamente delle provocazioni. Da lì in poi quindi si inizia diciamo un po' a alzare il livello della tensione, ma mi pare che è stata appunto tutta opera di chi poi quel giorno ha continuato a menare gente, che quindi mi pare chiaro che non sono stati manifestanti, ma sono state le forze dell'ordine. E niente, quindi dicevo, da questo sbarramento messo per provocazione, che inizia a provocare i primi spintoni, un po' i primi contatti, quindi poi un po' diretti fra i manifestanti in generale, appunto nella totale eterogeneità della piazza, e non quindi poi da un blocco unico, ma gli spintoni si prendevano da chiunque, perché lì a manifestare c'era chiunque. Da lì in poi si iniziano un po' a inasprire i rapporti con la polizia, anche la gente si inizia un po' a prendere forza, anche della massa che c'è sta in piazza, e in qualche modo ai lati de sto fiume, piccolo fiume di gente, perché ripeto ancora doveva finire di arrivare tanta della gente nella piazza, che quindi ci è venuta appresso non seguendo direttamente il corteo, ma dalle vie dove si fermava l'autobus, che vi ho detto prima, fino a dove stavamo noi, quindi non arrivavano nemmeno più con una forma lineare, cioè proprio la gente che arrivava sparpagliata a marea, quindi si saranno sentiti circondati, non lo so. E fatto sta che poi da lì a poco appunto dicevo, nei lati de sto grosso corteo ci stava pure chi insomma portava la sua protesta divelgendo quelli che sono i simboli del capitalismo, quella che da una parte è una pratica già diffusa per quegli anni, niente di nuovo, niente di inventato là insomma. E dall'altra però un angolo ancora proseguendo, incontriamo un primo commissariato dopo, senza nemmeno passarci direttamente sotto, ma passando proprio nell'angolo a fianco, iniziamo pure a sentire i primi spari verso il corteo da parte della polizia, vedendo proprio un poliziotto affacciato che ci puntava la pistola verso il corteo, quindi c'è detto proprio qui, vabbè, se c'è il seme da follia non ce l'avevamo noi in tasca, quindi non lo so chi è che l'ha voluto portare. E fatto sta, vabbè, da lì a poco poi almeno quella parte di corteo inizia un po' a scemare e anche a cambiare, prende direzioni un po' differenti, perché iniziano ad esserci, ci si ferma qui in una piazza dove appunto all'angolo abbiamo questo commissariato, proprio per evidenziare il fatto che corteo non è partito nemmeno da un quarto d'ora e ci hanno già tirato i lacrimogeni, ci hanno provocato tirando le cose, ci hanno cacciato dalla piazza dove siamo. E al primo nemmeno incontrare un primo commissariato, che già succedono delle cose che in teoria in Italia ricordavano 20 anni prima, scene in cui c'era ancora gli anni di piombo, cioè si sparava durante i cortei, si rispondeva piombo su piombo e queste cose qua. Mi pareva abbastanza chiaro che invece a Genova ci sarebbe stata una manifestazione appunto de massa e che non sarebbe stati scontri a fuoco all'angolo delle strade, e invece evidentemente la polizia l'aveva presa così, cioè il loro interesse era quello comunque di generare delle situazioni di guerra civile, non lo so, c'era comunque questo interesse a tutti i costi, che mi pare assurdo che comunque cioè, te per controllare in corteo c'è questo tipo di dinamiche qua, oppure della provocazione, il punzecchiamento e addirittura poi ecco gesti sconsiderati come sparare da una finestra al commissariato su della gente che da sotto te urla contro. Non è stato nemmeno. Cioè, no, volevo prendere un po' la palla al balzo per fare una considerazione. Io stavo da tutt'altra parte e quindi mi sembra interessante vedere un po' che sono considerazioni speculari uguali, nel senso che ecco anche alla percezione di chi non aveva un'idea delle dinamiche di piazza, alla percezione di chi non sapeva come erano andate le piazze negli ultimi 40 anni, alla percezione di chi arrivava un pochino più vergine a tutta questa situazione. Dal primo momento, tu raccontavi appunto già da prima che partisse il corteo, ma dal giorno prima, da tutto quello che arrivava e si percepiva, già c'era una percezione di un annullamento di un ordine. Cioè, siete fuori da tutto quello che le dinamiche con cui vi siete rapportati fino ad oggi, e per i prossimi 3 giorni sarà così. E questo si è dimostrato nei cortei che erano più caldi, nei cortei che non erano caldi per niente, eppure sulla gente seduta per strada. Quindi niente, volevo aggiungere questa postilla perché poi uno degli strumenti che hanno avuto i media per spiegare Genova e spiegare la reazione delle forze dell'ordine è pure quello del temporale. Cioè, sono arrivati quelli a far casino, la polizia si è mossa. Non è così, ma questo lo hanno percepito tutte quante le mille sfaccettature del corteo. No, no, su quello io, se c'è un ricordo ben chiaro, è anche quello che so ricorderanno anche loro, visto che mi hanno montato una tele. Cioè, c'è avuto anche questo aneddoto che mi è stata montata quando un giorno stavo lì al campeggio. C'era la polizia, in tranquillità, è venuta a montare una telecamera che puntava verso lì l'entrata del campeggio, no? Che io dico, vabbè, almeno fallo di nascosto. Cioè, nel senso, c'era pure una sfrontatezza nel modo di operare che dice: vabbè, non c'è niente di male che la polizia mette una telecamera a guardare un campeggio internazionale, anche se secondo me sei strano. Però mi pare anche che so delle regole che in altre situazioni non si comportano, non si sono comportate così. Nel senso, quindi c'è stava un ordine ben preciso, c'è stava una volontà ben precisa, mi pare piuttosto chiaro, insomma, anche perché, ti ripeto, che già è come se loro avessero affrontato pure la problematica rispetto ai cortei preventivamente, nel senso, per loro la cosa più normale era non farli fare. Cioè, poi probabilmente hanno detto di sì a chi è andato lì a chiedere le piazze, però diciamo l'ordine della polizia era quelli. Sì, era no, era fondamentalmente era un no. Oppure era tutto quanto anche strumentale, che poi la sensazione che rimane, perché poi uno non è anche giusto che poi le cose le racconta, perché poi giustamente c'è chi si è scagliato contro le banche, contro degli esercizi commerciali, tutto questo è successo, qui non si sa neanche a cercare gli alibi, probabilmente alcune cose sarebbero anche successe se il corteo del Carlini non fosse stato caricato a Via Tolemaide, probabilmente non dico chi l'aveva organizzato che magari aveva in mente qualcosa, ma se raggiungeva le grate della zona rossa, qualcosa sarebbe successo. Comunque il tentativo di sfondamento ci sarebbe stato. Magari a Piazza Marina, che sono stati bastonati a sangue, lì forse sicuramente lì non sarebbe successo nulla. Però c'era una situazione che comunque era stata lanciata di protesta enorme. Il clima era stato artificiosamente creato ad arte. E poi se andiamo appunto di delirio, e poi se andiamo a vedere, le cose sono andate poi diversamente. Il famoso corteo che stavi raccontando fu spinto appunto verso Piazza Marina perché serviva l'alibi, no? L'inseguire i cattivi per poter sprangare tutti. Il corteo di Via Tolemaide, poi l'abbiamo saputo dopo, il corteo di Via Tolemaide aveva tranquillamente, qualcuno aveva concordato con le forze dell'ordine un percorso che arrivava fino a ridosso della zona rossa, anzi qualcuno dice pure che anche una specie di tentativo di entrare all'interno della zona rossa. Dunque, invece, il corteo fu caricato dai carabinieri e non dalla polizia. Ricordiamo la famosa carica di Via Torino, che è splendidamente ricostruita da un video che si chiama OP. Se non mi sbaglio, che trovate anche in rete su NGV Vision, se ancora esiste, comunque lo trovate sicuramente in rete. Quel corteo a poche centinaia di metri dalla partenza fu caricato, tra l'altro neanche frontalmente di lato, e da lì si creò quella situazione di panico se vogliamo anche di scontro, perché poi lì saltarono tutti gli schemi, scontro che si allargò a macchia d'olio anche per le vie circostanze e che qualche ora dopo portò tra l'altro alla morte di Carlo Giuliani. Dunque, poi sempre per dare nell'insieme le cose, perché qui poi non è che stiamo dicendo quello non sarebbe successo o quell'altro no, qui non è che si tratta semplicemente di ristabilire alcuni punti. La caserma, sì, la caserma e il carcere di Marassi è stato assaltato, condivisibile o non condivisibile, però c'era chi è andato al carcere di Marassi comunque a fare un'azione dimostrativa, perché poi non è che se vai in 20 fuori in carcere qualcuno pensa di poter entrare e liberare i detenuti, si va a fare un'azione dimostrativa. Dunque tutta una serie di cose sono successe, però era anche curioso e interessante raccontare quello che poi come poi è stato il percorso generale della giornata, che è stato poi diverso, sicuramente diverso, noi a meno che l'abbiamo vissuto, è stato percepito ed è stato comunque, la realtà è diversa da quella che poi è stata raccontata e che poi nel frattempo noi negli anni abbiamo provato a ricostruire, perché poi per fortuna siamo stati anche bravi nel ricostruire quelle giornate pezzo per pezzo, però su alcuni pezzi probabilmente anche per colpa dei movimenti stessi, invece c'è stato un po' un tentativo di addossare delle responsabilità che invece di assumercele come collettive si è preferito, soprattutto nelle prime ore, no? Dopo le giornate genovese, si è preferito dare addosso magari ai vicini di banco, perché poi di questo si tratta. No, no, infatti io poi non so come dire, però ecco, il mio racconto prosegue poi sparso, nel senso in ordine sparso, perché da quella piazza lì in poi si sbuca appunto, da una parte si sbucava verso Piazza Manin, da un'altra invece poi non so se lì non si tratta, non posso dire che si tratta di gruppi che si sono staccati da, ma si tratta che da aver perso la direzione originaria del percorso. E quindi chi non era esattamente al corrente e del territorio di Genova e comunque delle giornate, quindi che era andato lì per portare la propria solidarietà, la propria disponibilità a partecipare a un corteo, ma sapeva poco di più, a un certo punto diciamo il corteo è come se fosse un po' esploso, con chi provava a mantenere diciamo una testa per continuare a proseguire per quello che era il corteo originario e chi voleva provare una deviazione, chi invece ancora doveva arrivare al corteo, stavo ancora quelli che vi dicevo, no? E più altri che erano già abbastanza pieni pure di lacrimogeni, perché comunque dopo questa cosa lì al commissariato, quelli del commissariato per allontanare un po' la gente, quando hanno visto che comunque il corteo non erano solo una manica, pochi sciamannati, ma era un bel fiume di persone, insomma, come dicevo pure prima, e hanno preferito diciamo tutelare l'angolo qui di sto coso, tirando la prima raffica di una bella innaffiata di lacrimogeni. E lì quindi pure c'è, già mi ricordo che c'erano già delle persone, che ne so, diversamente giovani, insomma, un po' meno azienda, che già demordevano, perché si erano già presa inusualmente dei gas lacrimogeni, che poi abbiamo scoperto pure il giorno dopo e più avanti che erano già i famigerati CS. Sì, attualmente ancora ci ritirano, sono sempre lo stesso carico. È curioso, poi chiudiamo sui gas CS, perché sono passati dieci anni che si denuncia l'utilizzo di questi gas che non potrebbero essere utilizzati, e in effetti all'estero non vengono utilizzati e in Italia si continua a utilizzarli. C'è un'intervista dell'attuale capo della polizia di Manganelli, che se non sbaglio è del 2008 o del 2009, che ultimamente ho ritrovato in rete, in cui lui 2 anni fa o 3 anni fa diceva: ah no, basta con i lacrimogeni CS, di gas CS, perché saranno tolti prontamente. Infatti chi stava in Val di Susa, o comunque chi si è ritrovato negli ultimi 2 anni in piazza, non è cambiato assolutamente nulla, tanto così per aggiungere qualche tassello. E niente, quindi vi dicevo, anche io poi da lì mi vado a sparpagliare, nel senso che appunto non avevo idea lì come raggiungere altre parti o gli altri cortei o gli altri amici che sapevo appunto partecipavano alle altre piazze tematiche. E non credevo che il corteo poi si potesse riformare eccetera. Comunque mi sono spostato con un gruppo di gente in una direzione dove non ci arrivavano i lacrimogeni, fondamentalmente non te sono nemmeno di se a nord a est. Boh, da quel momento in poi che succede? Subentra questa dinamica che non è più quella di stare dentro una città durante un corteo, ma di stare dentro una caccia all'uomo, capito? Perché poi come esci da queste nuvole dei lacrimogeni? Se esci dal lato della polizia hai perso, perché pure che appunto non stavi a fare niente, stai solo a asciugare le lacrime, ti iniziavano a prendere, a caricare, a portare via, come le deportazioni, come i racconti, firma di Anna Magnani, cioè nel senso una cosa inimmaginabile. Te dici, ma come, ma non è successo niente, c'è stata sparata la finestra e mo c'è tirate le lacrime, cioè così è iniziata. Beh, la partita è iniziata, che cos'è, che è successo? E niente, insomma, quindi io poi da lì, sì, appunto, ho dei frammenti di ricordi, semplicemente perché sono tutte una serie di corse e di pause tra uno spostamento da una nuvola di lacrimogeni e l'altra, ritrovarsi in una via totalmente sconosciuta, non sapere la direzione in cui stai andando, non sapere chi so quelli che c'hai a fianco, comunque te ne prendi cura perché so persone che stavano con te in secondo prima, non so come dite, iniziano a scattare pure delle dinamiche totalmente al di fuori di quello che può essere il movimento, il corteo, il collegio, cioè, è scattata una solidarietà umana fra ricerche, non so, braccati, capito, tra persone braccate. E così scatta questa immensa fuga in giro per Genova, sapendo che al centro non puoi passare, che in alcune direzioni non puoi passare perché te le ricordi bloccate, altre che come provi andavi di colonne, di mezzi militari, di polizia, di carabinieri, finanzieri, elicotteri, jeep, carri armati. Cioè, esce proprio fuori dalla concezione di vabbè, ma noi eravamo venuti a fare un corteo, volevamo fare un corteo, ho capito che ne siete impuntati, che sto corteo fa brutta, l'Italia ci fa brutta figura se famo il G8 e arrivano questi che pentole sotto al transatlantico dopo famo la cosa del G8. Però mi pare pure esagerato andare in giro con i carri armati a cercare la gente. Mi ricordo anche scene in cui, quando mi sono avvicinato, cercando poi di andare verso il lungomare, perché dice fammi vedere il mare, almeno là mi sciacquo, non so. E vedevo i motoscafi della Guardia di Finanza con la gente che scendeva dai gommoni e arrivava sulle spiagge a prendere la gente che era arrivata fino a mare a sciacquare. Cioè, eppure lì, non so come dirti, cioè, sono state delle scene che poi ti cambiano pure un po', perché te lì per lì nei ragionamenti che fai non è che pensi vabbè, mo prendo lo striscione, faccio uno slogan, continuiamo il corteo. Comunque pensi a salvata la vita, la tua e di quelli che c'hai a fianco. E per fortuna, cioè, abbiamo goduto di tutta la solidarietà possibile degli abitanti di Genova che ci aprivano i portoni, le case, le tabaccherie e i posti per darci da mangiare, da bere, nasconderci, perché vedevano loro che sono stati costretti dalla polizia a stare chiusi dentro le case e non poter andare a fare la spesa per una settimana in quell'occasione. E appunto, se loro ci sono venuti incontro esprimendoci solidarietà, ma pure facendoci capire che loro dai palazzi vedevano pure cose che noi per strada manco se ne rendevamo conto, e loro la paura l'ha portati a darci una mano comunque a noi, che poi nei 10 anni a seguì siamo stati quelli che hanno devastato Genova, quelli che hanno ammazzato, che se, per i loro comportamenti hanno ammazzato Carlo Giuliani, quelli che volevano per forza trovare lo scontro. Che però insieme non l'abbiamo alzata, deve cancellate per vietare la gente de passare a casa loro, insomma. E quindi così, diciamo, si trasforma quella giornata da quello che poteva essere un grandissimo corteo colorato, come appunto fu quello di Praga, in cui ci sono stati dei momenti in cui uno ha provato a forzare la zona rossa, e ci sono stati anche dei scontri, ma mi pare che è anche il normale andamento delle cose, no? Si prova a forzare, cioè nel senso. Vai prova a ottenere dei risultati, non è che vai, cioè, nel senso io non è che sto dicendo di promuovere la violenza, però nel senso, cioè, lì c'era l'obiettivo era quello di provare a forzare la zona rossa, perché il significato era quello di far capire ai potenti che non c'è bisogno di chiudersi in delle cancellate quando c'è, cioè, se te devi aprire al dialogo, no? Fondamentalmente era quello, quindi la forzatura stava tutta nel provare il gioco forza di proviamo a attivare un dialogo, perché allora se devono fare la guerra, a parte avete cominciato voi, perché cioè, non sa manifestare, non è che fai la guerra e dici no, venga a fare una manifestazione, cioè, voi vi siete fatti trovare con i carri armati, noi stavamo comunque là a manifestare, mi pare evidente chi è che voleva fare la guerra. E questo è così. Poi su tante altre cose in quella giornata, appunto, poi sono andate a finire con delle dinamiche che sono molto più simili a quelle dei paesi che hanno vissuto la guerra civile o delle dittature forti, ovvero appunto dei rastrellamenti a casaccio, delle desaparecidos, perché poi quella giornata è andata avanti appunto con delle scene che io mi ricordo sui libri che raccontano il movimento del 77, ovvero con le camionette di qualsiasi dimensione che inseguono la gente, i bambini, i vecchi, cioè la gente, no, che ne so, dei particolari rivoltosi, che inseguono la gente fino a sopremarcia a piedi, sopra le aiuole, e andando addosso alle macchine per provocare, cioè per lanciarti la macchina addosso, non so, proprio delle cose che te dici... Nemmeno sui videogiochi c'è più cioè me vai a ammazzare. Non è che c'era l'intenzione di voler fermare, cioè lì molte delle scene che ho visto erano proprio delle scene atte a ammazzare gente, che quindi cioè, e te, vabbè, poi te, che ne so, te vuoi lamentare se qualcuno ti ha tirato dei sassi, non hanno tirato dei sassi, cioè nel senso non senza sta giudicare nessuno, però ma che te devo dire, lì poi c'è stato il giusto, la giusta risposta della gente che ha subito un attacco, perché lì de punto in bianco te hai deciso che non andava più bene quello che comunque tante persone avevano pensato e avevano portato in piazza, quindi ci stavano, forse probabilmente il fatto che nonostante tutta la paura che avevano messo su quell'evento, invece c'è stata una partecipazione spropositata, perché ne avevano dette appunto delle cose prima, in quei giorni, proprio ogni giorno si inventavano appunto queste leggende, anche il giorno dopo la morte di Carlo, l'uccisione di Carlo, insomma... ce ne stavano di ulteriori leggende, cose che poi sono state chiarite soltanto poi con anni o dei processi o comunque di ricerca da parte dei compagni su come sono andate effettivamente le cose. E quindi per me pure lì c'è stata fondamentalmente, secondo me, la grande risposta proprio di persona, della gente che ci è venuta comunque, nonostante quello che ha detto Presidente del Consiglio, nonostante tutte le forze schierate, nonostante tutti i soldi spesi per impedire alla gente di venire, la gente c'era venuta uguale, e secondo me l'unico modo che hanno potuto mettere in piazza c'è un gesto di stizza, non so, come ammazziamoli tutti, questi li famo fuori tutti. Guarda, io ho la sensazione poi, che poi mi è rimasta per anni, che a un certo punto intorno all'ora di pranzo sono saltati tutti gli schemi, chiunque era andato in piazza per fare determinate cose, ma anche chi era andato in piazza per scontrarsi, non è che stiamo negando che non ci fossero, che non ci fosse anche questa intenzione, nessuno qui si mette a distinguere buoni e cattivi o vuol passare per quello che magari non è, anche chi voleva andare in piazza con determinate anche idee di scontro con le forze dell'ordine, comunque ha mutato il suo, anche se chiamiamola la sua strategia o la sua tattica o quello che è. Il corteo del Carlini, se lo ricordiamo bene, è saltato a un certo punto dopo la carica dei carabinieri ed è rimasto lì ore a scontrarsi con le forze dell'ordine che avevano chiuso appunto via Dolemaide, il cosiddetto blocco nero disintegrato e frantumato in diversi gruppi che poi si sono scagliati contro, lo ricordiamo, fondamentalmente banche, concessionarie d'auto di lusso, pompe di benzina. Ricordiamo che quello era un periodo abbastanza particolare, anche comunque dietro così, i simboli della grande distribuzione, i simboli delle multinazionali, su cui comunque c'è anche un lavoro politico dietro. Poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo sull'andare a danneggiare una banca, anche se poi il bancomat anche nelle manifestazioni successive, anche di altre aree politiche negli anni appunto a venire, sono stati aggrediti tra virgolette, ovviamente, perché un bancomat non si può aggredire, comunque sono stati assaltati o danneggiati, dunque è stata una pratica abbastanza diffusa anche successivamente. A un certo punto ho avuto questa sensazione che sono saltati tutti quanti gli schemi, il blocco nero accusato nelle prime ore e anche nei primi tempi, soprattutto nei primi mesi, come fondamentalmente un branco di infiltrati delle forze dell'ordine, neanche infiltrati dalle forze dell'ordine, proprio gruppi di poliziotti mascherati che avevano ad arte creato lo scompiglio nella città di Genova per fare in modo che poi si potesse scatenare la reazione della polizia quando Io almeno personalmente ritengo che gli infiltrati ci fossero all'interno di quella piazza, come all'interno dello Stato Carlini, come all'interno di qualsiasi altra piazza, come ahimè purtroppo avviene perché è una delle strategie della polizia per quanto riguarda l'ordine pubblico. Gli infiltrati c'erano, vestivano di nero, vestivano di rosso, di blu, di giallo, di verde, magari era il compagno di tenda che ha avuto per 3 giorni, il compagno di tenda, il vicino di tenda che ha avuto per 3 giorni col capello lungo che se stava là e sembrava la persona più tranquilla. Quello ci stavano prima, ci stavano 10 anni fa, probabilmente ancora ci stanno all'interno delle manifestazioni, però serviva in quel momento il mostro con cui scatenare anche una confusione che comunque c'è stata. Io ritengo, anche se dopo anni che si è persi un po' tutti, si è perso la bussola durante quelle giornate, forse probabilmente perché nessuno era preparato ad un attacco da parte del governo, di barra forze dell'ordine del genere, perché c'era chi minacciava guerre, ovviamente, no? Pezzi di movimento che minacciavano, ovviamente, tra virgolette, guerre o scontri o quello che è. Dall'altra parte c'è invece chi si era organizzato in maniera anche abbastanza disordinata, come poi abbiamo visto, però i suoi vari pezzi si erano organizzati invece per muoverla quella guerra. Sì, no, infatti anche su quello poi appunto possiamo iniziare a parlare del fatto invece il Black Bloc come strategia attuata dalle forze dell'ordine, i reparti speciali, i servizi segreti, nel senso ecco pure questa questione quanto è più facile infiltrarsi dentro un gruppo di persone che di per sé ha già scelto di avere il vestito più anonimo addosso. È sicuramente più semplice, quindi è anche più semplice mettere la pulce nell'orecchio fra i compagni, no? E non a caso, secondo me, anche uno dei motivi principali per cui poi nei 10 anni a seguire un motivo di divario fra diverse realtà dei compagni fu questa questione dei Black Bloc, però quella era proprio una strategia da zizzania, che ne so, divide et impera, il più classico de Cesare, insomma, no? E quindi su quello non ci piove, che poi sicuramente se non l'hanno adottata i compagni come tattica, è stata adottata appunto dalle forze dell'ordine come strategia. Primo per la sua facilità d'utilizzo, che a quel punto anche un paro poliziotto che poteva farli infiltrare in Black Bloc, perché non è che ci serviva, cioè in uno che poteva sembrare Black Bloc, perché non è che serve tanto di particolare, cioè una maglietta di nessun logo, una scarpa di nessun logo, non è che ti devi andare a mettere qualcosa preso in qualche posto che chissà come faccia rimediare. Allora è una cosa che comunque entri a stand e sei in Black Bloc. E quindi figurate se quello non poteva essere invece di controparte, invece di dimostrare il fatto che appunto no, che ci vuole, no, invece qui è passata invece l'idea che erano tutti una massa di erano tutti infiltrati, cioè dal primo all'ultimo, uscivano direttamente dalle caserme. Te vabbè, poi quella è pure un po'. Era un po' pure il risultato che è venuto fuori, semplicemente è stata avvalorata la tesi perché, diciamo, c'è stato per alcuni tanto sconforto nel non comprendere le motivazioni di quelli che si schiantavano, se lanciavano contro le banche, contro se vetrine, eccetera, perché lì per lì, appunto, per chi magari si era affacciato a questi momenti di trasformazione sociale all'estero, poteva essere magari già una pratica più. Che almeno avevi visto una volta, no? Nel senso era già più diffusa diciamo, questa tattica, appunto, diciamo più individualista, meno de gruppo, che ne so, qui in Italia un tempo si usavano i cortei, fatti tutti a cordoniere. Invece questa modalità qua presuppone che ognuno se ne sta pure un po' per gli affari suoi e se ne va in giro e quando vedi la situazione non è che devi chiamare qualcuno per andare a fare qualcosa, se prendi e vai, no? E quindi tutta questa autonomia personale, autonomia individuale, a tante altre realtà, soprattutto qui da noi, l'han un po' pure lasciate, come di queste pare che sono mossi da ordini, perché ognuno di loro sa quello che deve fare. E no, era pure semplicemente che ognuno di loro c'ha una volontà a sé. Capito, no? Era pure questa la pratica che magari si muoveva un po' di più fuori dall'Italia in quel periodo e che quando è arrivata da noi è stata più vista come una cosa infiltrata, non so come dire, una pratica da infiltrato e non... No, ma è anche vero che se ti organizzi in 10 per fare un'azione è molto più semplice, no? Hai le idee molto più chiare che non in 100 o in 1000, ma penso che questa sia un'equazione abbastanza semplice. Però sono d'accordo con te, credo che ci sia stato proprio un senso di disorientamento, di neanche di una percezione. Eppure c'era stata Praga dove... A Praga ci sono state delle cose simili, però probabilmente non era stata assimilata o comunque non voleva essere assimilata o non voleva essere assimilata. Noi che riteniamo che ogni pratica sia legittima se mossa da una piattaforma politica di condivisione comune, di conseguenza hanno la stessa piena legittimità chi decida di tirare giù un bancomat. Tale e quale da chi decide di pitturarsi le mani di bianco e starsene in piazza ad agitare le mani, non c'è nessuna differenza, se c'è un sentimento comune poi ognuno decide come stare in piazza. No, no, infatti poi su quello ti posso dire poi invece sempre per esperienza personale che magari lì a Genova in quell'anno, no, perché poi comunque stiamo a parlare di 10 anni fa, per noi adesso magari è tutto molto più scontato, mentre comunque lì si scoprivano anche... Ripeto, per alcuni secondo me l'hanno scoperte queste nuove pratiche, perché per me è stato pure un impatto. Vedevo pure come la gente reagiva. Da una parte comunque c'era l'emozione di vedere gente un po' determinata a fare delle cose, dall'altra un po' la paura, perché comunque stai a varcare quella soglia del vandalismo, non so come dirti, no? Di quella cosa che poi può essere poco capita dalla società comune, civile, come si chiama, dalla gente normale, non so come chiamarla, no? Nel fatto che te poi se fai vedere quel lato, che spacchi tutto, poi nessuno ti dà retta. E vabbè, infatti è su questo buonismo, no? Che poi hanno anche giocato molto i media e le guardie nel poi creare il vuoto a fianco a quelle persone che vennero poi in qualche modo incagliate nel macchinario della repressione dopo Genova, no? Hanno creato di fare proprio questo largo spazio fra chi fu arrestato e perché era fra i cattivi, e tutti gli altri invece un po' te la sei salvata, quindi meglio che te fa a fare. Tant'è che questo purtroppo è emerso con la sentenza di 25, ricordiamo le 25 tra compagni e compagni che in primo grado di giudizio furono condannati, se non sbaglio, a un totale di 110 anni, tutti e 25. Una metà, una quindicina, erano stati arrestati a margine del corteo di via Tolemaide per i fatti di via Tolemaide, un'altra decina invece a margine di altri fatti sparsi per la città. La sentenza di appello, che è stata forse una sentenza molto politica, come spesso avviene, che le sentenze sono politiche, non sono mai tecniche. Non si prende mai il caso, l'imputato, e si giudica per quello che è. È stata una sentenza ultra politica, questa più di ogni altra, e si è deciso in qualche modo di recidere questa unità che si era anche mossa dietro il processo ai 25, perché bene o male si era anche marciati tutti insieme a Genova dopo il primo grado di giudizio, perché chiedevamo la liberazione per tutte e tutti. La sentenza d'appello invece andò, ma anche giustamente, ad assolvere i 15 fermati a via Tolemaide, in qualche modo gli fu riconosciuto il diritto di resistenza, mentre agli altri 10, non riconducibile a nessuna particolare area politica, perché fondamentalmente serviva a colpire anche, no, quella stessa pratica che aveva imbarazzato le forze dell'ordine, quanto anche alcuni pezzi della sinistra istituzionale. Nonostante poi, se andiamo a vedere i 10 casi singolarmente, ci troviamo di fronte a un abominio giuridico. L'abominio giuridico è di per sé il reato di devastazione e saccheggio, ma anche un abominio per quanto riguarda l'iter processuale, visto che alcune persone non sono state neanche fotografate mentre fanno qualcosa, ma soltanto fotografate nella stessa zona dove è successo qualcosa, tanto per intenderci, come abbiamo poi notevolmente raccontato negli anni. Di conseguenza poi ci fu questa spaccatura e attualmente i 10 rimasti in attesa della sentenza di Cassazione, ricordiamo, è un totale per 10 persone, un totale di 98 anni e 9 mesi, con alcune punte di 15 anni, 13 e 12 anni e 10, ci sono 5 appunto che superano i 10 anni di pena, e ricordiamo che la Cassazione non può ridurre o cancella conferma la sentenza d'appello. Eh sì, insomma, questo appunto poi, oltre a quello che è stato messo in piazza quei giorni, diciamo, dagli apparati dello Stato, poi purtroppo la cosa che ci ferisce ancora molto è quello che è successo dopo, ovvero tutto la notte e nei giorni dopo e poi durante le sentenze. Perché poi ecco, si è preso pure lo spunto lì a Genova per cominciare un'altra pratica per quanto riguarda i processi collettivi, i processi al movimento o queste cose qui, no? Diciamo roba che era ferma un po', se mo non vorrei dire un'eresia, però diciamo a Milano quasi altri 10 anni prima, quando c'era stato, no, non erano 10 anni prima, però insomma qualche anno prima. Che ci fu lì il corteo dove presentarono un progetto degli Invisibili, dove però parteciparono un po' tutte le aree del movimento. Infatti, si spaccò in due da una parte: c'era chi andò da un lato e chi andò a devastare tutta una via di vetrine, quindi non è de gioiellerie. Quindi non è che poi non ci fosse già la percezione delle cose, però lì la polizia e lo Stato si muove in un'altra direzione. Invece, a Genova ci fa capire che avevano in mente già qualcos'altro, insomma, no? Perché iniziano a usare questi nuovi reati in concorso e soprattutto reati che si avvicinano molto di più a dei reati militari, non so come, da guerra, che appunto la devastazione che intendevano loro era qualcosa di molto più simile a un bombardamento che no, appunto, a un gesto di vandalismo, no? Poi soprattutto il reato di devastazione e saccheggio rientra tra i reati di quelli associativi. Sì, No, non ho capito. sempre per chiarezza, come se anche persone sconosciute che si sono ritrovate in piazza e che magari sono ritrovate a fianco anche nel danneggiamento di una vetrina, come se avessero concordato, pur non conoscendosi, come se avessero concordato chissà quale piano sovversivo, perché rientra appunto tra i piani associativi barra sovversivi che negli anni poi hanno ritentato di accollare, come si dice a Roma, senza poi nessun conseguimento, visto che il reato di devastazione e saccheggio è di per sé un abominio che non è mai stato dato che è stato usato e attualmente è stato usato soltanto esclusivamente per Genova e qualche, se non sbaglio, un altro paio di casi. Milano nel 2006 è un processo che riguarda un gruppo di ultras laziali nel 2005, se non sbaglio, comunque sempre subito dopo Genova. Sì, e questo poi, ecco, per quanto riguardava appunto la repressione che c'è stata, poi una cosa che volevo dire poi di differente che comunque c'è stato quel giorno, che davanti a tanta violenza delle forze dell'ordine, davanti a tanto voglia comunque di, non so come dire, di far male alla gente, non c'era proprio questa intenzione, no? Di colpire, ma non di arrestare, non è che stavano lì tutti che manette in mano, a voler provare a fare dei pullman dei arrestati, cioè, lì stavano lì a cercare di de prendere delle persone che poi passavano con una ruspa a portare via i corpi, no? Che è un concetto totalmente differente, che però da quello che ho potuto vedere, perlomeno nelle persone, le ha fatte reagire in un modo ben differente da quello che si vede di solito, ovvero la gente come dire, lì per lì si è autodifesa, insomma, cioè vedevi la gente comunque non, si è un po' articolata nel riuscire a trovare una via d'uscita, cioè a differenza di me le prendo tutte, perché lì non si trattava più di farsi da delle manganellate e farsi arrestare, si trattava di passare sotto le ruote di una Jeep, si trattava di farsi prendere a macchinate, comunque si trattava. Era. Magari farsi pure torturare poi No, successivamente. e poi scoprire che poi saresti stato anche torturato, fra l'altro. No, e quindi bene o male davanti a quello, perlomeno, ripeto, da gente comune, perché oltre a quelli che possono essere appunto delle persone che avevano già un'idea o gruppi di persone in cui potevano avere già una modalità di stare insieme e di fare le cose insieme, c'era la gente comune che si organizzava per difendere, cioè se ti succede qualcosa te si portava via, te cercava di portarti a riparo, una cosa che appunto succede, cioè io non ci ho avuto possibilità, cioè non ho mai visto una guerra da vicino, ma quel giorno, cioè per me è stato come sta al paese mio ca guerra, non so come dire, perché vedevo la solidarietà fra le persone come se te stai a vedere per l'ultima volta in vita tua, cioè non ti sei mai visto e te lasciavi dietro all'angolo con quelli che volevano andare in un'altra direzione come a dire chissà se ti rivedrò mai più, che ti succede, cioè. E queste cose comunque hanno fatto scattare dei rapporti umani fra quelli che si trovavano fra i braccati, perché poi parliamoci chiaro, lì continuerà, cioè per tanto tempo si è parlato dei feriti da polizia, stoporo placanica, cioè tutti questi che sono stati refertati, gli hanno poi dato un sacco di soldi di pensione, hanno aumentato promozioni, eccetera, no? E dici però i mortacci vostra, però lì è stata la gente normale che, se non gli veniva sto meccanismo appunto di autodifesa, di se stiamo a giocare tutto per tutto, perché quando vedi che appunto ti prendono a macchinate, che quindi sono saltati quei livelli di valori morali, non so come dite, no? La polizia sono i buoni, no? Stai proprio a giocare da un'altra parte dove sono cambiate le regole del tutto, diciamo, no? Poi se sono proprio opposte. Tant'è vero che poi ti ritrovavi in dei momenti in cui stavi in una viuzza o in un parchetto dove comunque ti eri ritrovato a nascondere, a ripararti con un po' più di gente, che se poi a un certo punto, a quel punto arrivava una sola poca polizia, quella gente riusciva anche a cacciarla via, perché comunque se era tanto, cioè sei stata scappata, sei preso le botte praticamente per niente, ti hanno riempito dei lacrimogeni, te inseguivano, facevano la caccia all'uomo dal giorno poi fino alla notte, per chi ha continuato, perché non ha trovato una direzione in cui andare, perché poi tanti sapevano proprio dove andare, e quindi magari ti ritrovavi che sei stata a scappare per 2 ore e mezzo, arrivi in una zona dove potevi stare più tranquillo, rivai di là perché pensi che è tutto a posto, invece ti sei lanciato, sei andato per sbaglio in una zona in cui stanno a continuare dei scontri che venivano da un'altra parte, quindi c'è stata gente che è stata 12 ore a scappare, poi in una specie di follia mentale, perché poi ma che fai? Cioè, non so come spiegare proprio le emozioni e sensazioni che c'è in quei momenti, perché poi si trattava di tachicardia in continuo, perché fra lacrimogene il fasse una corsetta e scavalca un muretto e fatti la gradinata e raccogli quello e cioè una buona prestanza fisica, cioè nel senso lì quel giorno sono state messe a repentaglio le vite di centinaia di migliaia di persone, perché se penso a quelli appunto diversamente giovani, perché non ci stavamo, solo quelli un po' più appunto gli studenti o chi questi così più arzilli, altri cioè lì tranquillamente potevi infierì su un sacco di gente, quindi sono state pure, non lo so, ecco, la cosa che a me mi piaceva pure ricordare è che bene o male la gente braccata ci ha avuto anche delle sue rivalse quando si è resa conto che comunque valeva la pena cioè, compattasse un attimo e dire cioè, noi andiamo in una direzione, andiamo a ritrovare un posto dove riunirci tutti quanti insieme, i 3 cortei, quello che erano, perché a un certo punto non sapevi manco più, quando poi ci si è provati a vedere lì a fianco al porto, all'acquario, non mi ricordo il piazzale quello dove c'era stato il concerto la sera prima, mi pare piazzale Kennedy, sì, dove poi appunto poi c'erano i carri armati eccetera, pure lì ci si è potuto stare, vabbè, però bene o male, capito, ci sono stati quei momenti in cui provavi a ristare insieme, a rivedere gli altri, a ricercare, a non apprendere le parti che ti eri perso, in cui comunque c'avevi un attimo di gioia di vedere che comunque gente, pure che ci stavano a mettere i piedi in testa in tutte le posizioni, comunque la gente non se ne stava zitta, comunque, cioè, perché io volevo fare solo una considerazione al vento, visto che questa è l'ultima sera in cui ci sopportate. Mi ha colpito che hai detto una cosa che dico sempre pure io e non ce la siamo mai detti, che hai avuto la sensazione di aver vissuto nel tuo paese la guerra, e questa è una cosa che ho sentito dire da tante persone. Io ho fatto delle interviste su Genova e ci sono dei punti, un po' un filo rosso che le lega tutte, un po' per tutti è stato un momento di rottura, nel senso che tutto quello che dovevi fare dopo poi non l'hai più fatto, c'è stato Genova, no? E questa consapevolezza di vivere la guerra nel tuo paese, secondo me è una cosa che ti segna a tal punto, e lo vedo su di me e le persone che conosco più vicine a me, che ti cambia le prospettive, nel senso che se sei stato lì non puoi far finta di non aver visto, né con te né con gli altri. Quando siamo tornati a Roma, quando siamo tornati a casa, mi ricordo le persone, le vecchiette, ma chissà, sti Brock, non si sa, no? Tutti che avevano percepito o ognuno una versione leggermente diversa dai media, però non erano convinti, quindi comunque la gente ti veniva a cercare per chiedere a te che stavi là come erano andate effettivamente le cose. E la prima reazione era però quelli hanno rotto, però quelli hanno fatto. Poi riuscivi comunque a dargli una panoramica un po' più ampia, lasciandoli poi ovviamente nelle loro posizioni. Ora, a me quello che penso sia uno degli irrisolti di Genova, almeno per quanto riguarda me e magari altri compagni come me, è che ancora non ci spieghiamo com'è possibile che chi stava lì è riuscito a mantenere questa retorica dei buoni e dei cattivi, dopo che ha visto in prima persona e ha subito pure lui in prima persona quello che è stato. Cioè, era un qualcosa di difficilmente incomprensibile, di difficilmente non chiaro, perché lo vivevi non solo con gli occhi, con tutti i tuoi sensi, con la carne, col corpo proprio, una maniera più profonda non potevi viverla. Quindi io sono andata a Genova, lo dico sempre, coi fiori in testa, sono tornata molto diversa e con delle consapevolezze che ancora mi porto dietro, e penso che sia così un po' per tutti, anche se non mi spiego delle reazioni negli anni successivi. No, su questo anch'io sono rimasto molto amareggiato da come poi, appunto, gran parte dell'amarezza, diciamo, al di là di quello che è successo e che ho potuto vedere, degli atteggiamenti della polizia, forze dell'ordine, di quelli che ci dovrebbero rappresentare, di quelli che noi paghiamo per cercare di rappresentarci, è stata più che altro la delusione vista invece fra quelli che quel giorno stavano, diciamo, dalla mia parte, no? Perché non lo so, non so se è colpa del fatto che videro un fenomeno differente, diverso, nuovo. Per me non era nemmeno nuovo, era solo probabilmente diverso. E fatto sta che dalle guardie io non mi aspetto niente, mentre invece dai compagni mi sarei aspettato perlomeno, che ne so, un altro tipo di concezione di quelle giornate, un altro tipo di pratica sulle critiche alle varie eventi che sono successe in quelle giornate, perché poi ce ne sono stati tanti, anzi, poi soprattutto magari fra chi era lì e chi ha avuto modo poi di rincontrare persone, ha avuto l'interesse di andare a parlare, a rincontrare pezzi di questa memoria, no? E non so come dire, cioè, si poteva ancora costruire tanto da quelle giornate, mentre invece alcune parti o del movimento, di questo movimento dei movimenti, alcune aree, eccetera, se ne sono un po' tirati fuori e hanno preferito puntare il dito, un po' come hanno fatto un po', appunto, gli apparati dello Stato o i partiti, quelli più classici, quelli che comunque quel giorno anche loro lì non hanno portato un pezzo di teatrino in piazza piuttosto che dei sentimenti, non so come dire. E quindi, vabbè, di quello io sono rimasto fortemente colpito, fortemente deluso. In qualche modo io condanno i compagni che hanno provato a creare delle differenze fra quelli pure che sono stati arrestati o che sono rimasti invischiati, incastrati, intenagliati fra le maglie della legge del nostro paese, soprattutto di quelle leggi fatte contro le resistenze sociali, non so come dire. Perché questa qua, devastazione e saccheggio, ripeto, per me è una legge ripescata fra le leggi quelle di assedio militare, e non puoi, cioè lì se qualcuno quel giorno ha fatto l'assedio non sono state le persone arrestate, anzi sono state tutte quelle promosse, primo, e quindi non puoi non potresti dare a collare un reato di questo tipo a un gruppetto di persone, primo perché a quel punto ce lo dovresti dare tutte e tutte, perché se è in concorso, allora che sia in concorso davvero. Dopodiché hanno voluto prendere 15 persone a casaccio, e quando quel giorno probabilmente c'erano le capacità di poterci pia uno per uno e portarci da, ci potevano far sparire tranquillamente tutti quel giorno. Quindi, capito, non ci vedono manco una certa efficienza, no, di questo Stato che poi si fa bello davanti agli altri all'estero, di quanto sono performanti i nostri reparti, no? Detto, almeno su quello, cazzo, cioè, ops. Almeno su quello mi sarebbe piaciuto che da parte di chi ha partecipato a quella giornata fosse uscito, no, un sentimento, non dico unico, però almeno, no, andante. Non è che poi se stiamo a pesta i piedi perché abbiamo inciampato su dei percorsi, oppure perché te l'hai voluto fare de corsa e io l'ho voluto fare a passo de cam. Cioè, ognuno nel senso, cioè, è bello quando i percorsi ognuno pratica il passo suo, chi a danza, chi col bastone, cioè, ognuno fa come gli pare, insomma. E invece no, su quello noi abbiamo avuto una regressione da Genova, mi è sempre parso, motivo per cui poi tante volte non mi sono manco sentito di andare a partecipare invece a delle situazioni che per me erano la quotidianità. Cioè, comunque dopo Genova penso che molti ci hanno avuto dei blocchi, a parte per le scene a cui ha assistito, perché non era roba di tutti i giorni, ti ripeto, ci mancavano le mucche morte per strada, cioè, no? C'era la mortadella, la famosa mortadella, però era proprio l'effigie di una scena alla Guernica, cioè, nel senso, capito, ci mancavano i pezzi di persone in giro e stavamo per davvero in Sud America, non lo so, capito, quindi su quello. No, mi trovo abbastanza d'accordo. Io, guarda, se posso fare la mia valutazione anni dopo, io ho rimosso molto quelle che sono state le dichiarazioni delle prime settimane dopo Genova, perché credo che sia meglio rimuovere il tutto. Credo che là si è perso parecchi di noi, anche gente con cui magari uno ci ha condiviso dei percorsi politici prima, ma anche magari anche dopo. Comunque parecchi di noi, io parlo sempre a noi perché poi puntare il dito è stato fatto ed è brutto, stiamo dicendo, parecchi di noi hanno perso la bussola a Genova, ci si è ritrovati in un gioco, si è provati. Si è usato un linguaggio nelle giornate precedenti, nelle settimane precedenti, che era quello là nostro, di provocazione, come dicevo prima, no? Di lanciare sempre continuamente la sfida. Ma per la prima volta, dopo molti anni, dall'altra parte c'era chi quella sfida la stava raccogliendo, ma la stava raccogliendo davvero per punire un intero movimento che era enorme. Perché più della giornata del venerdì, poi fu significativa la giornata del sabato, dove non c'erano più i mostri vestiti di nero, anzi, ricordo anche delle scene molto brutte dal corteo stesso, perché già era scattata la fobia, già dalle prime ore della sera del venerdì, gente vestita di nero che stava tranquillamente all'interno del corteo, cacciata o in qualche modo, in alcuni casi anche schiaffeggiata da manifestanti stessi, che magari erano manifestanti, il grosso erano poi arrivati il sabato mattina con i treni e con i pullman, perché le cifre tra il venerdì e il sabato sono cresciute almeno di 4 volte quelle che erano. E appunto, soprattutto il sabato, poi si è avuto proprio la percezione di quella che era la strategia. Il sabato sono successe delle cose, non posso dire più gravi, perché il venerdì è morto un ragazzo di 23 anni sparato da un carabiniere all'interno di una camionetta, una camionetta che non doveva stare lì, un carabiniere che non doveva stare lì, un'arma che non doveva essere in mano a quel carabiniere, perché poi il criminale non è tanto chi preme il grilletto, criminale è chi arma la pistola di un ventenne che non ha neanche la preparazione per stare in piazza, e si rende, cioè, essere stato travolto anch'esso. Io non sto difendendo una persona per cui non ho nessuna stima, e spero che abbia una vita anche abbastanza infelice. Detto questo, però, è oggettivo che poi vanno puniti e colpiti chi ha delle responsabilità nei confronti appunto di certi personaggi. Ripeto, come dicevo, appunto, il sabato sono successe delle cose allucinanti. Il sabato fu spezzato il corteo in due, proprio all'altezza, tra l'altro, all'altezza di quello che era, no, la sinistra istituzionale, perché poi fu spaccato proprio all'altezza di Rifondazione, e ci sono tantissime immagini di donne e uomini, come dicevi giustamente, diversamente giovani, appunto con le teste spaccate, perché poi quello è quello che è successo. Il sabato fu un corteo di delirio generale. Io mi ricordo semplicemente che vivevi, hai sfilato per Genova in stato d'assedio, guardandoli le spalle ogni 100 metri, sei andato via da quel corteo in gruppi anche abbastanza consistenti, semplicemente perché volevi portare la pelle al campeggio dove stavi dormendo. Credo che si è persi la bussola. Forse la cosa grave è che in questi anni, non tanto che ci sono state delle reazioni scomposte, disordinate, brutte, gravi, usiamo tutti i termini che ci pare, forse la cosa grave è che in quegli anni poi un po' tutti quanti noi abbiamo fatto un processo un po' di rimozione collettiva, non si è, la maggior parte di noi non abbiamo fatto i conti con quella che è stata la storia genovese, non abbiamo neanche fatto i conti con le forze dell'ordine e con un apparato giudiziario che si stava attrezzando anche appunto per punirci successivamente, non abbiamo fatto i conti con un reato come quello di devastazione e saccheggio che è stato dato a Milano nel 2006 per i scontri appunto dell'11 marzo, non è stato dato a, è stato dato, anzi è stato provato a dare a Torino per, durante un corteo antifascista, tra l'altro per due vetrine, tirate giù da, se non sbaglio, da un paio di compagni poi incriminati, e fortunatamente lì saltò. Tentativi comunque in qualche modo di inasprire le pene ci sono stati, e arriviamo al 2011 con, poi ripeterò sempre le stesse cose, con un ministro dell'interno che all'indomani appunto degli scontri in Val di Susa invoca il reato di tentato omicidio. Ovviamente nessun PM raccoglierà mai una cosa del genere, però è evidente che ci sta un continuo, ma neanche sì, un continuo. Così muovere così, quella che era una volta la linea di agibilità politica e di piazza, restringendo sempre ma sempre di più. In questi 10 anni l'abbiamo avvenuti. Forse l'unica differenza dopo 10 anni è che in Val di Susa la gente stava, non era assolutamente intimorita da chi era vestito con una maglietta nera, un paio di jeans chiari o viceversa, era assolutamente, si sentiva anzi rappresentata, determinata. Anch'essa come chi invece stava in prima fila, e il giochetto del buoni, cattivi, bianchi, neri, rossi, gialli e verdi è saltato. Ed è saltato perché la reazione dell'assemblea politica della Val Susina, dei Notav, già dal giorno dopo si rivendicava tutto quello che è successo. È saltato perché appunto nella conferenza stampa si è rivendicato tutto quello che è successo. Magari qualcuno può aver storto la bocca o no per alcuni atteggiamenti o eccessi che non sono magari pratiche politiche loro, però ci si è rivendicati compatti, uniti, come forse troppe volte ci siamo dimenticati di essere. No, su quello infatti anch'io ho apprezzato quando l'altra settimana dalla Valle, soprattutto il giorno immediatamente dopo, ai fatti di quello che i giornali chiamavano la nuova apparizione del Black Bloc, invece è stato assolutamente incoraggiante il fatto che i compagni e le compagne della Valle invece abbiano rivendicato tutto, con tanto di appoggio di anche versioni di persone che sono anche più legate alle vie istituzionali, nonché a chi è anche legato alle vie quelle religiose, diciamo, che comunque in quei giorni hanno sostenuto anche praticamente le lotte, anche dando indicazioni magari più che pacifiche, però nel senso questa cosa che c'è stata una compattezza di opinioni, almeno da parte di chi ha parlato, perché poi magari tanti altri non si sono espressi. Però nel senso almeno dire, oh sì, quel giorno noi abbiamo richiesto la presenza di chiunque voleva venire in valle a dare la sua solidarietà. C'erano diversi appuntamenti, quindi ognuno in base alle sue pratiche o necessità, se poteva mettere dove più gli piaceva, e ce la giochiamo e ci è piaciuto tutto quello che è successo dal corteo che veniva da di là, quello da quello che veniva di là, quelli che stavano nei boschi, tutto è servito a passare la giornata. Non è che poi questo a me mi è piaciuto come, cioè, queste cose qua mi danno forza e penso ci diano forza a tutti quanti, perché se quei giorni a Genova ne fossimo usciti comunque come certo adesso. Anche io temo nel dire che fu una vittoria, però cavolo, dire che invece fu tutto sbagliato, di certo non ci è servito a niente in questi ultimi 10 anni. Si poteva uscirne pure con una visione comunque positiva o condivisa senza per forza spararci un po' di merda addosso, non so come dire. Sì, perché poi allo stesso tempo invece c'è pure chi è uscito da Genova con in qualche modo anche nonostante tutto vittorioso. Io sono di quelli che penso che a Genova abbiamo preso una sveglia di quelle. Però. No, no, lo dicevo poco, anche, no, io, lo dicevo poco, anche come valutazione proprio politica, al di là di piazza, non piazza, però è evidente che se fossimo usciti da quelle giornate con un fronte compatto, unico, in qualche modo ci saremmo sicuramente preservare gli anni successivi ma non parlo neanche di spaccature politiche, perché le divisioni ci sono sempre state, e i compagni se le sono pure date per anni e probabilmente se le continueranno anche a dare tra di loro. Ma questo rientra anche, ci può piacere o no, rientra anche nel un po' anche nelle pratiche politiche, no? Non penso che qualcuno un po' più anziano di noi ci può raccontare cose ben peggiori che non le accuse via giornali, no? Su tu sei cattivo, io buono, no, cioè, no, qualcosa di diverso, però probabilmente ci saremmo preservati gli anni successivi, sicuramente denunce, processi, criminalizzazioni che in un modo o nell'altro, in qualche modo, alcune spaccature, alcune divisioni hanno sicuramente avallato. Questo è quello che penso. Poi magari sto dicendo un sacco di boiale, però la mia sensazione a 10 anni di distanza è stata semplicemente questa. Il fatto di aver lasciato la memoria genovese ai tribunali e ora la stiamo lasciando, farò una battuta, l'abbiamo lasciata prima ai tribunali e ora la stiamo lasciando ai diversi giornalisti che stanno scrivendo libri su Genova, quando noi stessi non siamo neanche stati capaci. No, qualcuno magari l'ha fatto attraverso video fatti molto bene, però la maggior parte non è stata neanche capace di essere lei stessa. Noi non siamo stati noi stessi capaci di raccontarci e di raccontare quelle giornate, come ce le siamo vissute, perché poi la verità è oggettiva, ma è anche vero che i vissuti invece sono soggettivi. Quello di stasera è un racconto di una persona, probabilmente di uno delle migliaia, altre migliaia di racconti ci sono e ci sarebbero, e forse sarebbe stato anche interessante sentire che non il Curzio Martese di turno sul giornale o i vari personaggi, al di là di chi scrive cose buone o cose cattive, proprio perché la storia la fa, cioè la storia la deve raccontare chi la fa, non chi la osserva. Sì, infatti noi ti ringraziamo molto per essere venuto qui, per averci fatto questo racconto, perché forse è un pochino un modo che abbiamo, seppur minimo, di mettere una pezza a questo buco di memoria e di analisi che ci abbiamo avuto in questi anni. Ma poi ormai sono stati sdoganati i Black Bloc, dunque se ne può parlare. La Val di Susa, 10 anni dopo, sdogana il blocco nero, non fanno più paura a nessuno. I giornali continuano a usare sempre lo stesso schema. Ci ha provato anche la questura di Torino, la polizia a Torino, se avete letto nei giorni le dichiarazioni successive, dicendo non erano manifestanti, ma erano black bloc, come se le cose fossero, no, come se uno è un corpo estraneo dall'altro. Erano manifestanti più determinati di altri, ma che erano assolutamente appoggiati dagli altri. Lo raccontavamo anche l'altra volta, la sensazione che c'è stata in Val di Susa. Io non c'ero, ero qui ai microfoni della radio, dunque ho sentito i racconti e visto le immagini, però la stessa sensazione che si è avuta in piazza a Roma a dicembre, c'era una prima fila di persone, qualche centinaio di persone, anche molto eterogenea, che ha provato ad assediare il cantiere Notav, un po' come a Roma quelli che hanno provato ad assediare ed avvicinarsi a Montecitorio, e poi c'era il grosso della manifestazione che non si è sciolta o disciolta o dissolta nelle vie come spesso avviene quando viene lanciato un lacrimogeno, ma è che è rimasta là solidale. Magari non tutti hanno la forza, il coraggio, la preparazione, ma non è, però è rimasta lì, vicina, schierata in qualche modo e solidale con chi stava 100 metri più avanti a respirarsi i gas CS, appunto, delle forze dell'ordine. Sempre loro. Va bene, io direi che salutiamo il nostro ospite e chiudiamo questo mini ciclo di trasmissioni su Genova, ricordando ancora per una volta che sono passati 10 anni, ma Genova non è chiusa, non è finita e ci sono ancora 10 compagni da riportare a casa. Sì, questo è l'unico sentimento con cui andrei a chiudere questa storia. Lo dicevamo anche l'altra volta, abbiamo deciso di rimuoverla, l'abbiamo deciso collettivamente, l'abbiamo deciso individualmente. Ok, a me mi sta bene anche questo, però almeno facciamo in modo che gli ultimi 10 rimasti sotto processo e che rischiano davvero il carcere, qui non si tratta di una denuncia che poi va in prescrizione o che poi ti porta a fare 6 mesi dei domiciliari a casa, che uno se fa politica può anche mettere in conto. No, qui si tratta che ti si aprono proprio le porte del carcere, perché c'è gente che è stata condannata a 15 anni. 15 anni è un reato pari a quello di un omicidio volontario, sempre per ragionare con i meccanismi della giustizia. 15 anni neanche se per associazione mafiosa ti vengono dati, eppure c'è gente fotografata mentre sta tirando giù un bancomat o tirando giù una vetrina che rischia seriamente di farsi 15 anni di carcere. Levaci l'indulto, se ne fa 5, se ne fa 6, ma se li fa tutti, manco un giorno di meno. Questa è la cosa che a noi ci premeva, è anche uno dei motivi per cui 10 anni dopo siamo ancora qua cercando e avendo avuto la voglia di cercare di raccontare Genova in maniera diversa, soprattutto attraverso chi quella storia se l'è vissuta dentro come protagonista, protagonista di pezzi diversi di quella storia, ne avevamo tantissimi, però ognuno e poi è protagonista di se stesso. Ciao, grazie. Ciao, un saluto pure alla radio e agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Ciao, ciao.